due ombre lunghe sulla sabbia calda, io che cammino, tu mi sei vicina e la tua mano pulisce le due ombre che un sole chiaro disegna sulla sabbia. Due ombre lunghe sulla sabbia calda, e lentamente il sole se ne va, si porta via un giorno di felicità senza parole inutili tra di noi. Un'ombra grande che ci copre tutti e due, restiamo soli e il sole è nei tuoi occhi, e non mi importa se ci sarà un domani, quando il mio oggi un'ombra grande che ci copre tutti e due, restiamo soli e il sole è nei tuoi occhi, e non mi importa se ci sarà un domani, quando il mio oggi è tutto qui.